poi viene catturato. Ecco. E vedremo cosa succede. Il dottor Barbacetto si serve di materiale visivo, così il discorso sarà anche più piacevole, nel senso che insomma mi accompagnato dagli strumenti. Sì. Vi invitiamo a prendere visione della nostra bibliografia, dei libri che solitamente esponiamo in occasione delle varie presentazioni legate al tema del corso. Così comunico anche le prossime due iniziative. Lunedì 21 settembre alle ore 18 ci sarà una conferenza sempre accompagnata da una bibliografia ad hoc che ha per titolo Reliti fascisti e tutela dei beni culturali in Alto Adige. I due relatori sono Giorgio Mezzadiera, che è uno storico diventato conosciuto spesso collabora con noi, e Umberto Pesciatti, che invece solo un archeologo della nostra dell'Antico provinciale, ma anche è presidente dell'associazione della sezione locale di Italia Master. Poi il lunedì 28 settembre sarà un momento così lirico, ecco, avremo una serata dedicata alla poesia con autori locali, relatori e moderatori locali. Ci saranno altri incontri, che avevo annunciato prima, su Andrea Soffer, con il tema appunto centrale Andrea Soffer. Il prossimo sarà il 22 ottobre, dove interverrà il professor Felis insieme a Silvia Volcan e parleranno più che altro della iconografia di questo personaggio. Il 12 novembre invece sarà la volta della presentazione di un libro di Andrea Soffer dello storico Carlo Romeo. Non avverrà qui in biblioteca, ma sarà a Palazzo Mercantile. Comunque poi ci saranno delle copie del libro anche da dare in distribuzione. E infine il 26 di novembre, lo posso già anticipare, sarà la volta della presentazione del libro del dottor Frangipane, che è stato tradotto in lingua italiana, e quindi ci sarà una nuova occasione di vedere da un altro punto di vista ancora la figura di Andrea Soffer e della storia di questa protagonista. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Questo è il titolo della mia breve relazione, che riguarda una ricerca a cui ho partecipato con un piccolo ruolo in un mega progetto che si è svolta negli anni passati e che è terminata in un convegno che si è tenuto in ottobre scorso. Se qualcuno ci fosse già stato, bene o male ripeto le stesse cose. La particina che mi ha toccata è stata l'esplorazione del lato italiano, tra virgolette, di questo periodo. Voi sapete che con la morte di Andrea Soffer, con la fine della rivolta tirolese, l'Alto Adige, quello che da questo momento in poi viene chiamato Alto Adige, viene annesso all'Italia. Viene annesso a questo regno d'Italia napoleonico. Questa è una testimonianza dell'epoca trovata nell'archivio di Stato di Milano, che ci introdurrà nell'argomento. Il tirolese è tenacemente attaccato al suolo che lo vide nascere, alle abitudini dei paesi suoi. Non ha tra lui alcun impero la moda. Gli uomini e le donne si vestono e si abbigliano come da secoli e secoli sono accostumati di fare. È laborioso, industrioso, passionato amatore della caccia, destro e sicuro nel cogliere il segno. C'è molta buona fede, semplicità e franchezza nel tirolese tedesco, ma l'italiano si risente dei vizi del suo vicino. Il villico generalmente si nutre, si veste ed alloggia meglio che i villici della Lombardia e delle ex venete province, e ciò, unito alla salubrità del clima, lo fa distinguere nella statura, nella forza e in quell'aria di sanità che gli brilla in tutta la persona. Questa è una descrizione fatta dai commissari italo-francesi che erano stati incaricati nei primi mesi del 1810 di studiare il territorio di nuova annessione. Questo territorio tirolese a valle di Colma sull'Isarco e di Gargazzone sull'Adige, quindi che comprendeva Bolzano, Trento, Riva, Arco, che era stato acquistato dal Regno d'Italia napoleonico per uno scambio territoriale con la Baviera. In realtà la Baviera aveva ceduto dei territori alla Francia, che poi aveva assegnato questo territorio all'Italia. Operazioni fatte in casa tra alleati che corrispondevano anche ad un gettare la spugna della Baviera a riguardo di questa area. La Baviera si sarebbe tenuta alla parte settentrionale, quindi sostanzialmente Merano, Bressanone, Brunico e tutto il Tirolo attualmente austriaco. Questa descrizione, limitatamente a queste parole che abbiamo visto, era simpatizzante con la popolazione annessa, 270.000 anime circa. La cifra la sappiamo perché in realtà l'annessione è stata fatta in base a un calcolo economico. Il Tirolo viene spartito e un certo numero di persone deve essere assegnato all'Italia perché garantiscano un certo gettito fiscale. È famosa questa popolazione per la rivolta dell'anno precedente. Siamo certo in una plurisecolare tradizione etnografica che ricollega lo stato d'animo delle popolazioni, il loro carattere al clima. E questo dominio italico, diciamo italico, su questo territorio che viene appunto chiamato Dipartimento dell'Alto Adige, come vediamo nei documenti storici, sarebbe durato pochissimo tempo, sarebbe durato sostanzialmente fino a pochi mesi oltre questo 10 settembre che vediamo qua. Nel dicembre del 1813 il territorio era già tornato completamente in mano agli austriaci. Quindi è una dominazione effimera, sono 4 anni, potrebbe non interessarci, se non che si tratta di uno di quei periodi di grandissimi cambiamenti che ci affascinano perché ci si manifestano le contraddizioni accumulate in secoli di storia precedente. Epoca di cambiamenti veramente molto, molto rapidi. Ecco, questo è il primo Regno d'Italia, il Regno d'Italia napoleonico, è quello colorato in verde, confina a nord con la Baviera che fa parte della Confederazione del Reno, e ci vediamo anche la linea di confine, qua è un po' schematica perché l'ho presa da Wikipedia, lo ammetto, e in sostanza Merano, abbiamo detto, rimaneva in Baviera, ma già insomma paesi come Terlano erano in Italia. La Valle Sarentina era tagliata a metà, poi il confine scendeva lungo un certo rio che stava subito a nord di Colma, la Val Gardena rimaneva in Baviera, ma l'Italia poi attraverso i territori di Ampezzo e Minalongo annessi raggiungeva Dobbiaco e addirittura la Valle di San Silvestro con una piccola penisola che andava a confinare poi anche con le province cosiddette illiriche, che era lo strano ibrido territorio annesso alla Francia, che comprendeva la Dalmazia, la Carinzia, la zona di Trieste, eccetera. È un'epoca strana, abbiamo detto, un'epoca in cui, visitando gli archivi, le lingue si mescolano: a sinistra il tedesco, sotto il francese, in mezzo l'italiano. Ed è un'epoca in cui, anche nell'apparente quiete degli archivi, troviamo questi strani fenomeni, i nastrini colorati con cui si relegano i documenti, che cambiano colore, bianco-azzurro, bianco-rosso e verde, giallo e nero. Sono documenti di questi 3 o 4 anni, e c'era l'usanza appunto di rilegarli con i colori dello stato a cui si appartenevano, sono tutti documenti riferiti alla nostra zona, che emergono negli archivi quasi mescolati, anche perché poi la dominazione successiva ha bisogno delle carte di quella precedente. La storia la faccio così, cerco di ricercarla con le modalità classiche, quindi biblioteca, di cui vi ho parlato la direttrice, ed archivio, che è la seconda gamba, la ricerca diretta sui documenti. Come dicevo prima, queste carte, come quella di cui abbiamo letto un bel brano, sono carte che riguardano la conoscenza del territorio. Chi conquista un territorio deve indagare, cercare di capire a che cosa può servire in un'ottica, siamo sempre in tempo di guerra, in un'ottica di produzione, di esazione fiscale, che tra l'altro in questo periodo è moltiplicata. La relazione di cui parlavo è particolarmente interessante perché è un esempio di spirito illuministico. Ci descrive questo territorio in base alle scienze naturali. Parte dalla geografia, dalla mineralogia, parla della natura fisica di questi suoli, delle catene montuose, questa catena secondaria che separa quello che noi oggi chiamiamo Trentino da quello che oggi chiamiamo Alto Adige. È curioso, ma sia il nome Alto Adige che il nome Sud Tirolo si riferivano all'epoca al territorio da Bolzano in giù, a quello che oggi è Trentino. Il capoluogo di questo dipartimento d'Alto Adige è Trento. Analizzava le strade e poi analizzava i tre regni, secondo la sistematica dei naturalisti, quella di Linneo: regno vegetabile, regno animale, regno minerale. Cominciamo dal regno vegetale, rapidamente. Vi leggo un altro brano che non ho riportato. Questi osservatori erano affascinati dalla viticoltura a pergola. Con la fatica, col sudore, con la molteplicità delle braccia e con una gravissima spesa, sottointeso i tirolesi, hanno ridotto il terreno generalmente sterile ad una fertilità artificiosa. L'hanno, diremo così, raddoppiato, poiché le vigne d'ogni intorno e dappertutto, sostenute da volte arcate, formano un secondo suolo non meno ridente e verde di quello che sotto si nasconde. Tutto è stato calcolato da questa gente industriosa. C'è pianura, c'è colle e c'è monte. Le proprietà sono piccole, ognuno è possidente e ognuno procura di trarre il partito migliore dalla porzione che gli appartiene. Il grano non ci riesce perché è soffocato dal calore del sole riflettuto dai monti. Parla della conca bolzanina, evidentemente. La coltivazione dei bacchi da seta esige troppa servitù e toglie il lavoro delle donne alla vigna, che di tratto in tratto, come si fa ancora, viene spogliata dalle foglie. I prati sarebbero di piccolo profitto a piccoli possidenti e non potrebbero essere per tutto irrigati, specialmente in questi luoghi. Si coltivò dunque la vigna e perfino le case sono fabbricate per la manipolazione del vino. Questo era il carattere essenziale di questo territorio, questo vedevano gli osservatori italo-francesi, D'Antoine e Alberti, gli autori di questa relazione. Si rivolgevano a dati locali, come quelli indicati da Franz von Plattner, cancelliere del magistrato mercantile bolzanino, che avrà poi un rapporto complesso, finirà anche in carcere, poi sarà liberato, poi lo utilizzeranno nella propria attività di governo. Allora, la parte meridionale del Tirolo, quindi quella annessa all'Italia, produceva 154.000 ettolitri di vino annui da esportazione, che è una bella cifra, un po' inferiore a quella odierna. Ma teniamo presente che i vigneti oggi sono anche un po' più estesi di allora e che abbiamo sicuramente altre tecnologie. Una vera lotta con gli elementi era data anche da una produzione di nicchia che oggi non esiste più, che è quella degli agrumi, persino nella conca di Bolzano. Con la dispendiosa costruzione i documenti parlano di orangerie, serre. I limoni di Bolzano avevano la scorza più sottile degli agrumi degli altri paesi. Il loro frutto, dice sempre questo documento, aveva maggiore quantità di sugo, era una produzione al limite, si remunerava con gli altissimi prezzi che i limoni spuntavano sul mercato tedesco, ovviamente erano richiesti dai signori, questi Südfrüchte, era proprio un genere di esportazione, e ovviamente c'era un bel vantaggio sia di quelli bolzanini sia di quelli gardesani rispetto ai limoni più vicini che erano quelli genovesi, perché la possibilità di arrivare freschi in Germania, in questo caso nostro, c'era, invece gli altri avevano una grande perdita di frutta andata a male. Al sud, nei distretti di Rovereto e Riva, si coltivava il tabacco e si coltivava soprattutto il gelso, che forniva un prodotto pregiatissimo. La lavorazione di questi due prodotti era affidata a donne, a minori, bambini, all'epoca era considerato un fatto positivo perché così i bambini non dovevano emigrare, cosa che invece accadeva nell'altra porzione di Tirolo, emigrazione infantile e giovanile. Le valli producevano ovviamente anche legname, pregiato quello della Val di Fiemme, ma anche quello della zona di Deutschnofen. Il nome era solo in tedesco all'epoca, almeno nei documenti che ho visto io. Mentre la zona di Mölten produceva il lino, come del resto tutto il resto del Tirolo. Nel regno animale il primato spettava ai bovini. In realtà questi documenti ci parlano molto a lungo dei minerali, in un'ottica che non vi riferisco se non che è ispirata ad interessi strategici, cioè non si parla per nulla ad esempio delle cave, del porfido che era già utilizzato, ma ai napoleonici interessava tantissimo l'unico paio di piccole miniere trentine di carbon fossile, perché ovviamente serviva a fare cannoni, serviva alla guerra che c'era all'epoca. Ricorrendo a luoghi comuni antichi poi si passava a trattare il commercio. Bolzano era una città nella situazione la più vantaggiosa e florida per il suo commercio di transito e per i ricchi spedizionieri, banchieri e negozianti che vi soggiornano e che ne avevano fatto la storia. La sua fisica posizione, dicevano D'Antoine e Alberti, la rende quasi necessariamente centro di tutto il commercio fra la Germania e l'Italia. Le case bolzanine, eccole qua, erano tutte fabbricate per il comodo del commercio. C'erano le quattro fiere annuali che venivano definite piuttosto, cito, fiere d'Europa che di Bolzano. E anche il famoso magistrato mercantile, risparmiato dalle riforme dei bavaresi, che grazie ai privilegi dell'arciduchessa Claudia de' Medici vi rendeva giustizia con la massima efficienza. In realtà il commercio versava in un periodo di crisi. L'istituzione di una frontiera a metà di quella che era stata una regione unita aveva comportato numerosi squilibri. Qualcuno ci aveva fatto anche degli affari. Pensiamo ai commercianti e spedizionieri anche locali che avevano pigliato l'appalto del rifornimento delle truppe napoleoniche fino in Russia. Però sicuramente i commercianti, tramite questi personaggi che erano venuti a informarsi, cercavano di far valere le loro idee. Supplicavano di permettere l'esportazione del vino verso la Baviera, stato amico dell'Italia francese, ma anche di poter importare senza pagare un eccessivo dazio il sale bavarese che era indispensabile per gli animali. E soprattutto temevano la concorrenza della seta italiana che avrebbe travolto la povera seta trentina, cioè le produzioni venete e lombarde erano favorite dal clima, dalla situazione. Tutte queste relazioni, nell'epoca, ecco, questo era il magistrato mercantile, si mi era dimenticato, nel palazzo che tutti conosciamo, con la sua fondatrice, l'arciduchessa in abito vedovile. Stiamo parlando del 600, ma i suoi privilegi erano ancora parzialmente in vigore. Tutte queste relazioni sono poi accompagnate da tabelle statistiche. Questo è un quadro demografico relativo ad un anno, credo che sia il 1811, ma da qua non lo vedo. E diciamo, questa è l'epoca della statistica. Si era già cominciato nel 700, ma il governo assume aspetti scientifici nella sua gestione, nelle sue tecniche. E sono infatuati di statistica. Se si sfruga negli archivi si trovano tabelle su tabelle, questa è manoscritta, ce n'è anche di prestampate. Il governo diventa un affare per tecnici, non si può più fare a spanne, anche perché i territori sono nuovi, i territori che vengono conquistati, di cui bisogna sapere tutto. Questi aspetti demografici a noi sembrano innocui, anche molto giusti, insomma, essere iscritti all'anagrafe, in realtà all'epoca servivano alla leva. Servivano a mandare persone a combattere per un lustro, 5 anni minimo, e a morire a seguito di Napoleone in giro per le varie parti d'Europa. Per esempio, proprio in quegli anni, sono gli anni della campagna di Russia. Documenti analoghi di altro genere che vengono concentrati in rapidissimo tempo nei primi mesi del 1810 riguardano tutti i diritti fiscali. Si succede ad uno Stato che non c'è più e si cerca di appropriarsi di tutti i suoi diritti, quindi i dazi, sapere dove sono le stazioni doganali, quali sono le tariffe, quindi le proprietà demaniali, le caserme, quindi la selva di pesi e misure che sono monopolio statale, le regole locali sulle polveri da sparo, i sali e tabacchi, le monete in uso, la divisione giudiziaria del territorio e anche aspetti che fanno un po' sorridere, ma le carte da gioco. L'archivio di Stato di Trento ha una collezione di carte da gioco perché erano tassate, fino a pochi anni fa c'era ancora il bollino, no? Ecco. Quindi questo è uno Stato centralistico che arriva su un territorio e finora abbiamo cercato di... Scusate, cosa succede? Un attimino. Abbiamo cercato di guardarlo dall'alto, guardarlo nell'ottica del conquistatore, di chi governa il territorio, di chi cerca di impadronirsene. E questo non doveva succedere nella mia ottica. Eccoci qua. E da chi deve impadronirsene? In realtà noi abbiamo anche testimonianze di tipo diverso. Testimonianze che provengono dalla base. Sono anni difficili. Nei primi mesi del 1810 Adrashofer, che era ormai latitante, rifugiato in una malga, viene catturato, viene portato a Mantova e fucilato. Nonostante una certa simpatia che gli stessi suoi avversari avevano dal punto di vista umano di quest'uomo per la sua rettitudine e anche in realtà di qualcuno dei suoi attendenti, dei suoi seguaci, pensiamo al suo vice, a Peter Mayer, che è stato fucilato a qualche centinaio di metri da qui, per aver ammesso di essersi ribellato, pare, racconta il Simeone, che è il cronista dell'epoca, che gli avevano prospettato di fingere di non aver saputo del proclama che indicava la cessazione delle ostilità. E lui lo sapeva, e quindi volontariamente ha dichiarato, sì, secondo la vostra legge io sono un bandito, non sono più un combattente, ed è stato fucilato per quello, l'hanno chiamato il martire per la verità. Questo è un aspetto pittoresco ma divertente, e tutti conoscono il Saltner tirolese, italiano si chiama Saltaro, c'era anche nella zona trentina ovviamente. Guardiano campestre con questo abito, diciamo, terrifico, armato di archibugio. Ebbene, i napoleonici sospettano anche di queste figure, che sono guardie private. Non credo che avessero velleità politiche, che avessero in realtà fatto parte tutti della rivolta tirolese. Nel 1810 vengono passati in rassegna e vengono levati loro gli archibugi. C'era stato anche un caso in realtà di un finanziere trovato morto in un vigneto, un finanziere italico naturalmente, che era andato a rubare dell'uva in sostanza. Ma l'idea è questa: nessuno al di fuori dello Stato napoleonico può essere armato. Anche le tradizioni e la convenienza economica, perché insomma il furto d'uva fa gola, specie in queste epoche, insomma, ma tuttora, se siete passati in un vigneto da poco, con i bei grappoli, insomma, è l'unica che ha il monopolio della forza. Tutte quelle che sono le realtà locali vengono cancellate, represse. Il primo anno si concede ai saltari solo il bastone, il secondo anno fa quasi più ridere l'alabarda, possibilmente non affilata. È un periodo quindi di repressione, le armi vengono tutte sequestrate. Questo è uno degli aspetti, ovviamente c'è tutto un carteggio negli archivi che ho trovato all'archivio di Stato, l'archivio comunale di Bolzano, che dura anni a questo riguardo. Esistono altre pratiche in cui riusciamo a capire la voce che viene dal basso. Per esempio, a un livello ben superiore di questi rappresentanti della classe contadina, i famosi mercanti di cui prima, i signori di Bolzano, banchieri, spedizionieri, e in generale tutta l'elite che circolava intorno al magistrato mercantile di Bolzano, che avevano retto le sorti della città in realtà per secoli tramite i traffici internazionali. Questi, che risultano fra i sostenitori della rivolta tirolese contro la Baviera, di fronte al nuovo regno italico vengono un pochino a patti, e in realtà lo stesso regno italico cerca di appoggiarsi su di loro. Il magistrato mercantile di Bolzanino viene abolito perché è all'epoca delle riforme legislative, ma viene trasformato in camera di commercio, e le persone che fanno da giudici, da cancellieri di questo nuovo organismo, camera e tribunale di commercio, in realtà si scinde in due, sono esattamente la stessa elite bolzanina di prima, che è un'elite, lo ricordiamo, assolutamente bilingue, è un'elite che ha da secoli rapporti commerciali con almeno mezza Italia. Venezia, Verona, Milano, Lucca sono le piazze con cui da secoli sono in contatto per le esportazioni di seta verso il nord, le importazioni di materiali dalla Germania. Questi vengono ai patti col nuovo potere. V'è da credere in realtà che i festeggiamenti per il compleanno di Napoleone in città di Bolzano, che risultano particolarmente sfarzosi, siano stati almeno in parte sinceri. Non tutti costoro avevano simpatia per la rivolta. Sicuramente invece erano diverse le opinioni dei contadini, ai quali pesava più che altro, oltre alla leva obbligatoria che sottraeva braccia, affetti, al maso, a vitto, pesava anche tutta una serie di riforme. Il periodo sia bavarese, perché anche i bavaresi erano ispirati da un illuminismo drastico, portano per primi quale novità della rivoluzione, ma anche il periodo del Regno Italico è il periodo della più colossale sostituzione legislativa che sia mai avvenuta in questo territorio. Quando l'Italia è arrivata qua dopo la Prima Guerra Mondiale, ci ha messo 10 anni a cambiare le leggi. Il Regno Italico di Napoleone ha introdotto per la prima volta un codice civile, che non c'era prima, un codice di procedura, un codice di commercio, ha regolato nuovamente tutte le materie delle strade, dei dazi, degli appalti pubblici, la coscrizione obbligatoria, ha rivoluzionato la beneficenza, introdotto i registri delle ipoteche, riformato le lotterie, l'organizzazione dei tribunali, radicalmente stravolto l'amministrazione comunale nel giro di meno di 6 mesi. Un impatto estremamente drastico. A qualcuno in realtà queste cose piacquero: avere un piccolo codice civile che sta in una mano rispetto alle biblioteche di volumi del diritto romano commentate da glossatori, commentatori, trattatisti medievali, integrate con statuti locali tirolesi scritti in latino, in parte in tedesco di secoli precedenti, con magari le piccole regole di ciascuna comunità rurale ad aggiungersi, le quali potevano essere o in tedesco o in un italiano dialettale. Insomma, questa semplificazione a qualcuno piacque e come, ma non poteva piacere ai contadini, i quali in questa riforma avevano anche alcune cose da perdere. Pensiamo al sistema comunale. I podestà e sindaci, si chiamavano così a seconda delle dimensioni dei comuni, non sono più espressione della comunità locale, bensì nominati dal prefetto, il quale è nominato dal governo, il quale a sua volta è nominato dal re d'Italia, che era casualmente, anche casualmente si può dire, imperatore di Francia, cioè Napoleone. Agiva talvolta tramite il suo viceré, che era Eugenio Beauharnais, ma comunque un accentramento del potere tale in realtà non c'era mai stato. A livello minuto, quello che interessava ai contadini, i comuni vengono accorpati, le piccole comunità rurali vengono raggruppate in comuni maggiori, quello che era il territorio del comune di Bolzano prima, quello l'odierno territorio del comune di Bolzano, era diviso in una città di Bolzano, in un comune di Gries, in un comune di Zwölfmalgrein. Ebbene, i napoleonici ci annettono anche l'Aives, assoggettano tutti alla città. Nel Trentino questo impatto è ancora più drastico, esistono comuni nuovi formati da decine di comuni precedenti. Un primo passo, diciamo il lavoro sporco, lo avevano già fatto i bavaresi. Avevano dichiarato che queste antiche istituzioni, regolanerie maggiori e minori, era stato Massimiliano I di Baviera con la controfirma del suo ministro, quello odiato dei tirolesi, Montgelat. Tutte queste comunità locali che da secoli si gestivano in autonomia, pascoli e boschi, dovevano essere abolite. Totalmente e assolutamente abolite, dice testualmente il bollettino delle leggi bavaresi, perché istituzioni anomale, incompatibili con la nuova organizzazione dei giudizi distrettuali, che erano i nuovi organismi della Baviera, come con qualunque altra regolare amministrazione di giustizia e di polizia. Questo è quello che studiosi della storia giuridica, come Paolo Grossi, potrebbero chiamare assolutismo giuridico. Non si accetta più che il territorio esprima le proprie consuetudini. La legge è calata dall'alto, viene studiata dai filosofi e dai giuristi, dai grandi legislatori, in un gabinetto che sta molto vicino all'imperatore, che con la forza del suo fascino da un lato e delle armi dall'altro, la fa calare dall'alto. Ma a questo punto i nuovi comuni cominciano a gestire i pascoli e i boschi comuni di proprietà collettiva, che prima erano gestiti dai contadini tramite le loro istituzioni. Risultato, scrive un amministratore della zona di Riva del Garda. Dal suo punto di vista, hanno cominciato a mettere in vendita questi beni per finanziare i nuovi comuni che dovevano pagare l'alloggio dei militari, eccetera. Le salutari alienazioni dei beni e specie delle selve e dei monti comunali, salutari perché servivano agli amministratori dei comuni, eccitano nel popolo il più pericoloso malcontento generale. Dappertutto, ma principalmente nell'Arcese, quindi ad Arco, si sentono risuonare tutte le contrade di maldicenza e di vendetta. Il popolo non sa o non vuole comprendere essere questa una disposizione superiore, il diritto che cala dall'alto, ma riguarda tutto ciò come l'effetto di interessata intelligenza di questo giudizio e dei rappresentanti comunali, che intendono coprire le loro ingiustizie con la scorta del nome superiore. C'è ancora l'idea che il re debba per forza essere buono, che se c'è qualche cosa che non va sono gli amministratori locali. Risultato, la plebe che niente ha da perdere, comunque siano per essere le circostanze, e che godeva sin qui gratuitamente i boschi e i monti delle comuni, quindi io non ho terre ma la mia mucca e la mia pecora possono pascolare, adesso mi vendono la montagna, va nelle escandescenze, e ci credo. E cosa fanno? Prendono la roncola e tagliano i vigneti del sindaco. Questo è successo nell'ultimo periodo bavarese, è uno dei motivi per cui c'è la rivolta di Andreas Hofer. Nella zona del Trentino meridionale ci sono dei corpi che sono addirittura più violenti dei tirolesi, hanno aspetti banditeschi e sono rappresentanti da persone locali che hanno degli affari molto locali da regolare. Hofer stesso fa fatica a tenerli disciplinati in certi periodi. Ma questo non è solo un episodio locale, è un piccolo frammento di una storia continentale. Forse qualcuno si ricorda, in un libro che è un po' fuori di moda, ma questi fenomeni li descrive Carlo Marx a riguardo dell'Inghilterra del Settecento, la recinzione dei pascoli comuni. Era sicuramente l'origine di una nuova economia capitalistica, che si associa ad un nuovo diritto che non è più il vecchio diritto nobiliare, in parte feudale di prima, che lasciava vivere, anche se magari sfruttandole, le comunità contadine. È il nuovo diritto borghese, che si fonda sulla libertà di commercio anche della terra. Ma questo nuovo diritto e questa nuova economia sono anche edificati a spese di qualcuno. E quel qualcuno, a modo suo, aveva cercato di opporsi. In realtà, dalle nostre parti, questo processo non arriva fino in fondo, come nell'Inghilterra studiata da Marx, perché questi boschi e pascoli in parte esistono ancora. Ed esistono anche perché, timoroso di far la fine dei bavaresi, il regno italico e addirittura i francesi stessi, proprio i militari francesi, appena conquistato questo territorio, vietano ai comuni di vendere i pascoli e i boschi, perché hanno paura che questo causi rivolte, non che gli interessasse particolarmente la sorte dei contadini, sia ben chiaro. Altre rivoluzioni, non ho le illustrazioni di tutti, è forse un po' più patetico e meno decisivo, assolutamente sconfitto, è un altro tipo di ricorso, di supplica, che ho trovato negli archivi in questi anni. E la fine del sistema delle corporazioni. Le arti e i mestieri erano secolarmente organizzate in gruppi chiusi che decidevano tramite la cooptazione chi poteva svolgere qualsiasi mestiere, ma anche mestieri come il calzolaio. I calzolai di Bolzano, organizzati nella Schusterzunft, corporazione dei calzolai, fanno delle pietosissime suppliche contro la libertà di commercio. Sono arrivati dei forestieri, addirittura degli stranieri a Bolzano, che esercitano l'arte di calzolaio. Loro cercano addirittura di nascondersi sotto la tutela dei consumatori, non sanno fare le scarpe, truffano il consumatore, non si sono iscritti alla nostra arte, chiediamo di vietargli l'esercizio di questa professione. E ovviamente l'amministrazione napoleonica risponde: signori, è arrivata la libertà di commercio. Questi stranieri venivano da Chiusa, erano bavaresi, sudditi stranieri, quindi, e i tempi sono cambiati drasticamente, e da allora non sarà più come prima, anche se la dominazione di Napoleone durerà poco, l'Austria si guarderà bene dopo dal ripristinare il sistema di prima. Più divertente è un fatto ancora più divertente che ho trovato ad Arco, e lo Stato si ingerisce anche nell'amministrazione ecclesiastica, lotta contro i poteri della Chiesa, mette in vendita spesso i beni dei monasteri che vengono soppressi, ma cerca anche di gestire, di vedere bene com'è la gestione dei conti delle fabbricerie parrocchiali, di queste cose. E ad Arco si trovano in una situazione drammatica. Non riescono a capire come fare a gestire secondo le tabelle, le schede previste, perché questa chiesa di Arco ha 14 contabilità diverse, relative a confraternite diverse: una si occupa delle campane, l'altra delle candele, l'altra dell'olio santo, una di un certo altare a sinistra. Oltretutto poi era usuale fare maneggi, prestiti tra una fabbriceria e l'altra, tra un altare e l'altro. Insomma, il diritto, le consuetudini locali complicatissime nate nei secoli vengono spazzate via. E spesso ci sono incomprensioni, a volte violente, a volte no. E questa è l'epoca dei cambiamenti. Cerchiamo di vederne qualcun altro. Abbiamo parlato del clero. Conoscete questo? Giovanni Nepomuceno de Ciderer, qualche anno dopo quest'epoca, principe vescovo di Trento, nostro concittadino di Bolzano. I napoleonici, che non sono i rivoluzionari giacobini, ma che ci si avvicinano un po', cercano di mettere sotto controllo tutto il clero, specialmente perché questo era stato in gran parte coinvolto nella rivolta hoferiana. Si danno dei giudizi, dei pareri segreti su ciascuno di queste persone. Questo giudizio su Ciderer: condotta ottima ma balbuziente e di capacità mediocre, tale anche comunemente riputato. Nessun problema politico, ma lui faceva il professore nel seminario, poi liceo di Trento. Perché l'ho scelta questa? Perché ci viene bene in mente. Perché balbuziente quest'uomo? Se poi diventa principe vescovo non sarà stato balbuziente, oltretutto l'hanno poi fatto anche beato, per carità la condotta era ottima, ma forse anche la capacità c'era. Teniamo presente che forse nell'italiano di allora mediocre non è proprio così negativo come nell'italiano di oggi. Probabilmente perché lui non sapeva l'italiano. È uno dei pochissimi casi che io ho trovato in cui si può immaginare una qualche contrapposizione di natura etnica. Questo è un giudizio comunque fatto da amministratori venuti da fuori, o se non di fuori, comunque trentini. In altri casi questo fatto non esiste e ho già accennato a questa elite di mercanti di Bolzano che, tutto sommato, nel periodo napoleonico naviga abbastanza bene, senza grossi problemi. In realtà, anche dal punto di vista linguistico, perché siamo nella campagna di Russia, ve lo dico subito, per un certo periodo l'amministrazione italica è prudente. A Bolzano gli atti di stato civile, che sono una grande novità, prima lo stato civile lo facevano i parroci, sono redatti in tedesco perché è la lingua del paese. La comunicazione tra i piccoli comuni locali e la viceprefettura di Bolzano avviene in tedesco, poi dalla viceprefettura alla prefettura di Trento avviene in italiano. Le leggi napoleoniche vengono tradotte in manifesti che vengono stampati bilingui. Si cerca di farsi capire, ma poche settimane prima di questa, che è la battaglia della Beresina, Napoleone in persona da Mosca, Mosca ormai in fiamme, scrive un decreto che tollera l'uso del tedesco nel Regno d'Italia per soli 6 anni. Dopodiché ogni atto pubblico dovrà essere ricevuto soltanto in italiano. Le aree riguardanti, che riguardano, insomma, a cui questo provvedimento si riferisce, sono ovviamente il nostro Dipartimento dell'Alto Adige e qualche piccola altra località aggregata al Dipartimento di Passariano, che è il Friuli, la zona di Tarvisio, che era stata annessa al Regno d'Italia. Sia detto per incidenza, in questo periodo anche il territorio viene visto come creabile, modificabile dall'alto. Paesi, vallate, vengono staccate dalle zone cui appartenevano prima e aggregate ad altre in base a considerazioni geometriche fatte a tavolino. Dobbiacco, all'epoca lo chiamavano Tobiacco, Toblacco, Tobiano, non erano ancora molto decisi sulla grafia italiana. La Valle d'Ampezzo, Livinallongo vengono aggregati al Dipartimento della Piave, Piave femminile, non era ancora maschile. Questi altri territori di cui parlavo prima, che facevano parte della Carinzia, vengono aggregati al Friuli, cioè al Dipartimento di Passariano. Sono tutte anticipazioni del modo di comportarsi dello Stato moderno, quale vediamo soltanto per moderno e contemporaneo, lo vediamo soltanto per pochi anni, ma questi confini sono stati nuovamente ripresi nel periodo fascista. Le valli ladine vengono divise, vengono staccate da quello che era il loro ceppo, appunto Cortina aggregata al Piave, eccetera. Certo, il destino di questa riforma, contrariamente a quella fatta da Mussolini, è segnato, perché capirete bene che un decreto scritto nella Mosca in fiamme non è di buon auspicio per chi lo scrive. E da lì in poi la fortuna militare di Napoleone, nonostante qualche grande colpaccio ancora, comincia a declinare. Quindi vediamo quello che sarebbe potuto essere e non è stato, e che però la storia in qualche maniera ci ha riportato più avanti. Questa è un'interessante indagine in vista della nomina degli amministratori locali, che abbiamo detto sono nominati dall'alto. Chi è vicino lo legge. Nota delle persone più distinte ed abili nei comuni dei cantoni della sottoprefettura di Bolgiano, tra parentesi, Bolgiano con la G, è una forma che si trova nei documenti, il che ci fa anche pensare che ha ragione chi dice Bolzano con la Z sonora e non Bolzano con la Z sorda, perché il G è una correzione di una pronuncia Z che era sentita come un po' dialettale. Perché lo tiro fuori questo documento? È molto carino perché ci sono tutte le persone più in vista e più fidate, meno compromesse con la situazione della rivolta cofferiana. Comune per comune, per esempio lì a destra c'è scritto Eppan, più sopra c'è scritto mi pare Deutsche Noffen, no, Egna c'è scritto, Egna l'ha già scritto in italiano per esempio, insomma, Egna sì, si scrive il comune e nelle ultime due colonnine, sì, no, vedete, si dice se il futuro papabile per essere amministratore comunale sa l'italiano o no. Allora vediamo che situazioni come appunto Deutsche Noffen hanno l'intera elite locale del paese che non conosce l'italiano. Ma mentre nella colonna sinistra Tramin o quella a destra Enya hanno la quasi totalità degli amministratori che lo conoscono. Sulle 175 persone designate come possibili amministratori, 158, scusate, ce n'è 74-75 che sanno l'italiano. Quindi poco meno della metà, che per un territorio in cui l'italiano non era mai stato lingua amministrativa, non è esattamente poco. Certamente però è una conoscenza di elite. A Bolzano lo sanno tutti, ma lo sanno tutti chi? I commercianti, quelli che hanno avuto a che fare col magistrato mercantile. Nella Bassa Tesina lo sanno tutti, ma perché è la lingua del vicino. Nei piccoli paesi, non lo si vede qua, lo sa solo il prete, perché ha studiato al seminario di Trento, fondamentalmente, perché la diocesi era ancora quella trentina, è da poco che siamo uniti con Bressanone. C'è un'indicazione più specifica che riguarda il popolo basso, nella stessa città di Bolzano. E a Milano il Regno Italico apre una nuova scuola per levatrici e ci sono dei posti gratuiti. Venite a studiare l'ostetricia a Milano. Manda a circolare in tutti i comuni e il comune di Bolzano risponde: le nostre ostetriche non sanno l'italiano, non possono andare a questa scuola. Si perdono questa possibilità. Quindi c'è tutto un attivarsi anche per far studiare l'italiano nelle scuole, che peraltro in questo periodo restano o solo tedeschi o bilingui, dove si riesce a trovare una persona che sappia l'italiano, che di solito è il prete. Certo, la difficoltà dei tempi stava nella guerra. L'archivio è pieno, gli archivi in generale, comunali, quello provinciale, in piccola parte, quello di Stato di Bolzano, di documenti riguardanti la caccia ai disertori. Disertori che vengono da tutte le parti, ne arrestano qualcuno che sa solo lingue slave. Riguardanti il transito delle truppe, abbiamo dei moduli bellissimi a Milano sulla situazione delle truppe nella Place di Bolzano, scritti in francese anche se i soldati erano italiani, perché ovviamente servivano a chi comandava. Migliaia di soldati sani, feriti, a cavallo, a piedi, che si trascinano, napoletani, tedeschi, francesi, italiani, che si spostano in tutte le direzioni, prima in avanzata e poi in ritirata. Ospedali militari organizzati lungo tutte le vie di transito, anche quelle laterali. Tutto a spese dei comuni, che appunto poi sono costretti a fare delle ipertassazioni, a chiedere dei prestiti forzosi, a vendere i beni comunali, poi danneggiando i poveri contadini, eccetera. Quindi lamentele. Una vera Europa in movimento, cenciosa, piena di gloria, ma anche di ferite. Pensiamo ai sudtirolesi, alto atesini, si diceva allora, forse anche adesso, morti in Russia dietro Napoleone, che non ricorda nessuno. Non sono morti a difendere le loro case con Andreas Hofer, ma sono tantissimi. Un esercito che è tornato più che decimato. E in questa situazione ci potrà anche essere chi è nostalgico. Adesso io mi avvicino perché da qua non la vedo bene. Queste sono le annotazioni di un generale. Generale che aveva un bel nome perché si chiamava Milosevic, scritto con TZ, era italiano, tra virgolette, veniva probabilmente dalla Dalmazia, ma era erede di quegli schiavoni, si vede che era di Venezia. Sicuramente i suoi antenati parlavano sempre. Per quanta calma OGD gode il dipartimento, dessa potrebbe essere da un istante all'altro agitata, se non da estrinseche cagioni. Il timore è che l'Austria mandi qualcun altro per sollevare di nuovo questo territorio. Parlava anche di Trento, non solo di quello. La calma di un paese montuoso, per la facilità di essere turbata, potrebbe paragonarsi a quella del mare. Un popolo montano, quanto semplice e altrettanto credulo, è pronto a barcolarsi delle più dolci chimere, ad ogni apparenza di novità che gli promette il ritorno dell'antico ordine di cose. La novità che promette il ritorno è una novità un po' strana. Per lui basta un audace impostore o un fanatico onde metterlo in moto. Tra parentesi, ci sono questi sacerdoti, frati, suore dei vecchi conventi soppressi che la Baviera non vuole, anche se sono originari magari del Tirolo del Nord, e che continuano a girare per le chiese facendo prediche, facendo questo. Vengono poi arrestati, sono visti come agitatori politici. Erano persone che avevano perduto tutto, che erano state anche maltrattate oggettivamente perché non aveva fatto nulla di male in sé, e che pagavano le spese della rivoluzione e che erano amati dalla popolazione. Si fa riferimento anche a questo. Basta un audace impostore, un fanatico, di metterlo in moto e portarlo a più grandi eccessi. senza cercare degli esempi nell'antichità, basterà di ricorrere alla sfortunata, non lontana esperienza di 2 anni prima, la rivolta di Andrea Schoffer. Scusate se torno, ma non ho proprio questa gran vista e devo un po' decifrare. Un oscurissimo cabaretiere, ho dovuto fare una ricerca, cabaretier, insomma, è un oste ambulante, parola francese, giunse a tenere per lungo tempo in insurrezione non solo questo tratto di paese, l'Alto Adige, la parte meridionale, ma tutto il Tirolo. E l'immagine di un simile ridicolissimo capo si vide portata non a guari sul cappello di alcuni insensati giovinastri del limitrofo distretto di Marano, che sarebbe Merano. In sostanza, dei bavaresi, quindi disertori, sfuggono alla coscrizione bavarese, entrano nel Regno d'Italia, cioè insomma passano il torrente di Gargarzone, con l'immagine di questo ridicolissimo Andrea Schoffer che è morto. Ecco. Con questa immagine qua. Questa è la maniera in cui vedevano il personaggio, i francesi. Per la cronaca, questo Milosevic morirà nelle guerre napoleoniche, era generale di brigata. Era un'epoca decisa, insomma, si amava, si odiava, ci si ammazzava. Ma questa, io volevo concludere con queste idee, perché abbiamo cominciato con un ritratto molto simpatizzante di questa popolazione sana, dedita al lavoro, alla caccia, di salute migliore rispetto agli abitanti delle altre zone. Ma questo è lo stesso documento con cui abbiamo cominciato, che dice ben altro. I tirolesi, e particolarmente gli abitanti della parte settentrionale del dipartimento, quindi gli altoatesini aggregati all'Italia ma di lingua tedesca, questi dei dintorni, non si debbono dire né divoti né religiosi, ma superstiziosi. Una delle occupazioni loro favorite è il frequentare le chiese, pregare, cantare, spargere d'acqua benedetta ai sepolcri dei trapassati, visitare i calvari, ed ogni parrocchia ne ha uno, far segni di croce, borbottare paternostri innanzi alle 1000 immagini e Cristi onde son pieni i borghi, i villaggi e le campagne. I preti e i frati volgono la loro fantasia, la testa e il braccio del tirolese, che insorse contro il governo bavaro poiché lo volle il clero, che se ne chiamava offeso per le innovazioni introdotte. Superstiziosi, non religiosi, dicono. Il tirolese non si definirebbe mai come superstizioso, però c'è un piccolo episodio che mi fa pensare. Una sorta di micro giacobino locale, che in realtà è uno di qua, che fa niente meno che il segretario comunale di San Genesio, che non si chiamava ancora San Genesio, si chiamava Ienesien, contemporaneamente lo fa a Lengmos, cioè in Renon, quindi va su e giù da Bolzano, poi ogni tanto viene coinvolto in risse in osteria Bolzano perché dovrà pure riposarsi. Ci lascia, io lo leggerei in tedesco, una piccola testimonianza, poi continuiamo con questa. Alla fine dell'aprile del 1811, dice a San Genesio, «Gingen einige Italiener herum, welche vom Päpst de Zettel verkauften, die auf einen gewissen Tag den Untergang verkündeten. Man spürte ihnen nach, konnten aber nirgends erfragt werden, weil selbst die Bauern sie verheimlichten. Die Betrüger lockten ihnen vieles Geld ab und verbreiteten unter dem Landvolk Furcht und Schrecken. Dei sudditi italiani, non si sa di dove, magari anche del posto, perché si sono messi a vendere ai contadini queste stampe che dichiaravano di essere papali. Stampe che prevedevano la fine del mondo. Estorcono denaro ai contadini e spargono paura e terrore. Non si riesce ad arrestarli, quindi un po' di superstizione forse c'era anche. Continuiamo con questo brano. Giuseppe II, quindi il riformatore che aveva in realtà in gran parte fallito qualche decennio prima, aveva fatto dei validi e non infruttuosi sforzi per introdurre in Tirolo dei sani principi. Ma successa la di lui morte e sopravvenute le lunghe guerre donde siamo appena sortiti, in realtà sarebbero continuate di lì a poco, siamo nel 1810, i preti e i frati ne profittarono per assoggettare più fortemente il tirolese superstizioso al loro gioco. Ecco Giuseppe II. E insomma, qua c'è una bella lotta, non dico di civiltà, ma di cultura, perché abbiamo tutte le forme dell'illuminismo, giuseppina, giacobina, napoleonica, magari anche massonica, alcuni di questi amministratori napoleonici lo erano, E abbiamo il vecchio Tirolo, religioso o superstizioso. Negli scorsi giorni vi fu un uomo assennato, che non sappiamo chi fosse, ma sarà stato uno di questi commissari franco-italiani che erano venuti a studiare il territorio, che faceva dei riflessi ad un villico distintosi nella passata rivoluzione, dicendogli che aveva costato tanto sangue, tanto denaro, tanti incendi, tanti saccheggi, e inutilmente, sottolineatura nel testo. Ma il villico rispose: no, inutilmente, poiché ora possono suonare le campane ad ogni momento ed abbiamo le prime nostre processioni. Ed era questa, più o meno, quella che poi era stata la conclusione del mio breve studio. Un'epoca di cambiamento, sicuramente di commerci, a volte di alleanze, di conoscenze. Abbiamo anche dei casi, se vogliamo, di amicizie, di collaborazione, ma è anche un'epoca di scontro. E questo scontro, allora violento e per fortuna non sempre così, bene o male ce lo portiamo dietro ancora. È lo scontro fra uno Stato laico con le sue pretese, le sue idee, e una coscienza religiosa che fa parte comunque della nostra tradizione. Grazie. Mi sposto di là e sono qui. Sono a disposizione per curiosità, a volte fare. Sì, sì, mi prego. Ma, scusi, io ho perso i primi 10 minuti, sì. Però non so, da quello che ho sentito, sì. Mi sembra che nel periodo napoleonico, sì, che ci interessa questa conferenza, non ci siano stati dei grossi problemi di accettazione da parte della popolazione, secondo quello che dice lei, mentre vedendo la letteratura tedesca sembra che qui abbiano sofferto moltissimo in quegli anni. La sofferenza c'è stata. E io credo, almeno quel po' di letteratura che ho letto, credo che si riferisca soprattutto al periodo immediatamente precedente, che è quello bavarese, che dura qualche anno di più, dove le riforme sono veramente drastiche, calate dall'alto. Il Regno d'Italia arriva poco dopo, il lavoro sporco, l'abbiamo detto, è già stato fatto, i rivoltosi sono stati militarmente sconfitti e quindi, anche se si soffre e si tace, cercano, diciamo, almeno le piccole classi dirigenti locali, piccole o grandi, come i commercianti bozzanini, cercano un modo di vivere. Il governo italico, che fa sempre capo a Napoleone, ma ben più direttamente che non i bavaresi, che sono degli alleati, che hanno un governo proprio, fa un po' tesoro di questa esperienza. Questo aspetto delle processioni, è vero, viene rilasciata una certa libertà, ovviamente è un'ottica di, diciamo così, di far star buono al popolo. Le campane possono suonare liberamente, avevano vietato solo le campane i bavaresi, se non con autorizzazioni particolari dell'autorità di polizia, tranne quelle notturne, perché ovviamente si torna indietro, ma non del tutto. E fa parte del rituale in molti luoghi, la scampanata notturna intera, la notte dei morti, per esempio, tutta la notte, cose insomma anche un po', che erano viste anche ovviamente come superstiziose da un certo punto di vista. Le processioni sono di nuovo autorizzate. Quello che pesa davvero è il prelievo fiscale e la costruzione, e queste ci sono in comune. Il tentativo è quello di cercare di difendere i prodotti locali, di organizzare una linea doganale intermedia che permetta ancora al prodotto locale, vino, seta, tabacco, di non subire la concorrenza lombarda, veneta. Queste cose falliscono in realtà. Però i commercianti qualche via d'uscita la trovano, c'è appunto il lucro della riforma, insomma, diciamo, l'affare del fornimento delle truppe. Chi è imparentato con i rivoltosi cerca e piano piano riesce a far tornare i prigionieri che erano stati portati a Mantova, all'isola d'Elba, che hanno vissuto e spesso sono morti in prigionia in situazioni molto difficili, e gli archivi fanno abbastanza frequentemente riferimento a informazioni che l'autorità chiede alle autorità locali su chi siano queste persone, se possono essere rilasciate, se sono pericolose. La risposta è sempre quella: sono buoni padri di famiglia che sono stati costretti ad arruolarsi da rivoltosi. Ma l'idea è che comunque le autorità italiche si fidino abbastanza, cercano di arrotondare. È un periodo difficile, ma non si arriva allo scoppio ancora, questo voglio dire. Non ci si ama probabilmente, è un governo straniero, almeno qui. A Trento il discorso è più vario, sicuramente. Cosa succede? Che però non sappiamo cosa sarebbe successo. Gli austriaci arrivano negli ultimi mesi del 1813 e arrivano in virtù delle sconfitte napoleoniche nell'Europa centrale. Trovano però appoggio nelle popolazioni locali, questo sì, anche se non è un'insurrezione come quella precedente, che ricordiamo era stata utilizzata dall'Austria ma che aveva avuto una forza propria, nel senso che è proseguita senza l'appoggio austriaco, da cui poi la condanna come banditi in sostanza. Difficile dare un'idea, credo che questo Milosevic, questo generale, avesse parlato di una quiete apparente e questa era la situazione. Sapeva che si sarebbe potuti tornare in una situazione di guerriglia. Al momento non lo si era. Nell'altra parte del suo documento lui chiedeva: mandate per favore dal reggimento che faccia la caccia ai disertori, che sono degli agitatori per esempio, oltre magari a fare furti, a turbare l'ordine pubblico, ma potrebbero anche convincere qualcun altro a seguirlo. Più o meno è questa la situazione. Non so se ho risposto. Grazie. Prego, sì, sì. Ma, lei ha parlato soltanto del Regno d'Italia. Sì. Ha studiato anche la Baviera? Cioè, che differenze c'erano, ci sono state tra il Tirolo annesso al Regno d'Italia e il Tirolo bavarese? Non l'ho studiata molto la cosa, dal punto di vista bavaro. Diciamo che il nucleo della rivolta in realtà stava nella porzione passata alla Baviera. E gli animi erano anche più contrapposti. Pensiamo che una quota della popolazione italiana del Trentino vedeva con simpatia il regime napoleonico. Ovviamente la situazione bavarese è anche, dalla parte bavarese anch'essa, non così netta come a volte si racconta, ma sicuramente dopo la sconfitta comunque le questioni si acquietano. C'è anche spazio per il pentimento, per dei tentativi di la pacificazione di bavaresi, poi ci sono comunque i soggetti, ad esempio i centri cittadini non sono dei grandi rivoltosi, vale tutto sommato per Bolzano, vale per Innsbruck, hanno anche paura quando poi entrano i contadini che questi facciano giustizia a modo loro, perché ci sono dei raccolti più vecchi, ci sono delle invidie ma anche delle vecchie sopraffazioni e quindi il nucleo dell'opposizione alle novità sta nel ceto contadino. E non a caso si parlava con disprezzo, questo generale probabilmente era un aristocratico, ma gli osti sono l'elite interna al ceto contadino. Ceto contadino che tra l'altro in Tirolo era più autorevole che in altre zone, perché si veste meglio, forse lei non c'era all'inizio, il contadino tirolese si veste meglio di quello lombardo o veneto. Il contadino lombardo-veneto nei secoli precedenti ha perso la proprietà delle sue terre. È un bracciante, normalmente, è uno che lavora a terra dei padroni. Il contadino tirolese in questa fase storica di solito no. Il contadino tirolese è possidente, aveva un posto nella dieta del Tirolo, come ceto. Le vite dei contadini sono gli osti. Non so se si possono chiamare borghesi, non lo sono perché non stanno nel borgo, non sono cittadini di solito, stanno gli osti di città, ma sono dei piccoli capitalisti. L'osteria di Hofer che sta in Valpassiria non era poi un posto così sperduto, nel senso che lui nella valle era molto importante, la sua osteria era il punto dove era obbligatorio scaricare i carri perché oltre non proseguivano e caricare le merci sui portatori. Lui aveva una bella cappella vicino alla sua osteria che era anche luogo di pellegrinaggio perché un antenato era stato pellegrino e aveva fatto questa cosa. Prestava soldi come tutti gli osti, aveva delle reti di relazioni anche nel Trentino meridionale, lui era stato imparato italiano, non so se la storia si fosse nella zona di Fiavé, in questo piccolo paese, che però non era così piccolo e non era così trascurabile perché c'era una linea secondaria di traffici parallela all'asse del Brennero, che faceva il passo delle Palade, scendeva in Val di Non, e in un'ottica di trasporti a cavallo e a piedi, l'altimetria relativa può essere più comodo se io sono, che ne so, nel Bresciano, andare in Germania via Valle Giudicare e Merano senza passare da qui. Oggi con i nostri mezzi non ha senso questo discorso, ma allora sì. Insomma, erano persone che erano al centro della questione, ecco, i contadini sicuramente detestavano tutte le novità. Le detestavano perché avevano da perdere. Perché, a parte l'aspetto religioso, facile gioco dire sono fanatici, era anche vero, ma dovevano andare a fare un servizio militare che era ben diverso dal vecchio servizio tirolese senza uscire dai confini, che non lo facevano tutti. Quindi significava andare dove diceva Napoleone, insomma c'era stato l'Egitto, non per i nostri, ma si sapeva, c'era stata la Spagna, c'era la Russia. Significava un prelievo fiscale drammaticamente superiore, perché tutto questo aumento di funzione da parte dello Stato significava un'estorsione ai livelli massi, che poi erano queste le cause delle prime rivolte in sostanza. La Baviera aveva avuto essa stessa l'ambizione di fare uno Stato di questo genere, e forse proprio per l'apparente similitudine aveva trascurato il carattere di tirolese. Questi arrivano e lo studiano il tirolese come soggetto, gli italiani, sanno già che può essere pericoloso, e in quei 4 anni cercano di tappare i buchi. È una cosa un po' diversa. Scusi, quindi nel resto dell'Italia, come sì, questi territori che sono poi sempre assoggettati a Napoleone, invece c'era già lo Stato centrale che prendeva e non c'era questa autonomia, giusto? Dunque, volevo capire la distinzione tra sì, i sudtirolesi e gli altri. Perché i sudtirolesi si lamentano un poco, ma sì, gli altri come stanno? Gli altri come stanno? Beh, prima dell'epoca napoleonica, ovviamente l'Italia era divisa in stati federali, questo è il primo tentativo naufragato di unificarla in realtà, ciascuno dei quali ha una propria situazione. Prendiamo i principali. Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia è gestita da un'aristocrazia formata dai soli nobili veneziani, che hanno come alleati riottosi i ceti dirigenti delle città che dominavano le campagne, Treviso, ma soprattutto Verona, Padova, insomma città più importanti. È un sistema in cui i contadini sono completamente tagliati fuori, e quando arriva l'esercito francese, già nel 1797, i contadini trevisani ballano sotto l'albero della libertà, anche se nel bicentenario di quella data i loro eredi, che non erano veneziani cittadini, che avevano perduto tutto, ma erano i loro eredi trevisani, poi sono andati sul campanile di San Marco a sventolare il vessillo che i propri antenati avevano bruciato per quella data. Chiaro che però bisogna vedere se questa libertà poi si manifesta veramente. Diciamo così, i ceti borghesi delle città italiane vedono una bella possibilità con lo Stato napoleonico. Carriere maggiori rispetto a quelle che permettevano i loro piccoli stati, dominati spesso da aristocrazie, possibilità di carriera militare che indubbiamente prima non si poteva fare. Contadini comunque si trovano anch'essi gravati dalla leva e non vedono certe riforme che loro speravano, perché nella loro ottica si doveva anche spesso recuperare ciò che si era perduto, questi famosi terreni comunali. C'erano anche nel Veneto, c'erano stati in Lombardia, erano stati messi all'asta in parte dalla Repubblica di Venezia, comprati dai signori. Ci sono casi in cui, anche dopo, nel 1848, i contadini prendonosi le armi, ma per i propri obiettivi. Poi, essendo battaglie locali, bisognerebbe vedere luogo per luogo cosa è successo. Ovviamente il rapporto di forza era contro di loro. Poi in Italia c'erano già i primi ideali nazionali. Non piacevano i francesi, però stavano unificando l'Italia. Avevano messo da parte certi vecchi signori, combattevano contro l'Austria, che sarebbe diventata poi il nemico diciamo, nazionale, però allora aveva le mani in Lombardia, in altri luoghi, portavano una costituzione, sebbene fosse stata poi tradita, perché arrivano come repubblicani, poi diventano imperiali, ma ci sono tante persone che si illudono, che ci credono, non so, abbiamo studiato scuola Ugo Fosco, se ne muore Napoleone, poi viene deluso. È un'epoca anche contraddittoria. Certo, in Italia gli aspetti favorevoli sono maggiori che in Tirolo. Puntualmente qua e là vengono fuori anche delle rivolte, ce n'è una famosa, piccolissima, ma un paesino del Polesine, si chiama Crespino, mi pare. Si rivoltano perché le truppe francesi fanno dei saccheggi, cosa che fanno tutte le truppe. Questa rivolta viene repressa con alcune fucilazioni e per un paio d'anni questi abitanti sono considerati colonia militare, non gli lasciano organizzare un comune, e sotto l'ex municipio sta una lapide dove c'è scritto: gli abitanti di Crespino non sono italiani, poi vengono perdonati. Quindi anche qui è tutto molto variegato, ma sicuramente si sviluppa una serie di persone, dei ceti alti, amministratori, che poi ritroveremo dopo. Questo prefetto che viene mandato a Trento, che è Alessandro Agucchi, bolognese, farà una carriera successivamente, ma sarà anche fra i cospiratori contro l'Austria nei decenni successivi. Dovrà andare in esilio, eccetera. E quindi sì, è un po' una palestra per quello che sarà anche probabilmente il sorgimento successivo, con tutte le sue contraddizioni. Buonasera, grazie. Arrivederci, grazie. C'è qualcos'altro? Sono qui. Altrimenti abbiamo tutti a cena. Senta, io sono arrivata tardi. Sì. Ma lei ha fatto un libro su questo argomento? No, io ho fatto, dicevo, ho avuto una piccola parte in un megaprogetto con un sacco di altre persone, organizzato da più enti, tra cui l'archivio provinciale di Bolzano. Abbiamo fatto un convegno a ottobre scorso in cui usciranno gli atti, e questo è un articolo che sta dentro. E ovviamente sì, la mia angolazione mi ha detto: vabbè, tu studia gli archivi italiani, quelli Barbari e Austriaci ci pensiamo noi, che erano un sacco di altre persone anche molto più addentro di me nelle cose, insomma. Io direi che possiamo fare complimenti, perché è stata una bella relazione, chiara e interessante. La stampa di alcuni titoli che abbiamo recentemente catalogato, per cui se qualcuno è interessato. Come si chiama? Come si chiama? Lo leggerò.